l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro viaggio settimanale a raccontarvi l'Europa e lo spirito che l'Europa cerca appunto di condividere, di contagiare, di respirare. Potete seguirci anche sui nostri social network, la pagina di Facebook, facebook.com/l'altra Europa, oppure Twitter, l'account è @ Federico Taddia, social network che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link che andiamo a toccare. Vi ricordo che è un programma in collaborazione con il network paneuropeo Euronet, euronet.eu. Anche lì una bella casa, una casa europea, tante lingue diverse, tante inchieste diverse, le voci dell'Europa, insomma, che si fanno sentire. Ogni settimana un viaggio e oggi partiamo proprio da Strasburgo. Corretto. Brugna è venuta dall'Oriente per servire la mia gente. Ma tu sei un vero poeta? E questo è il mio figlio, è in Cina. Questa settimana a Strasburgo si è tenuta la plenaria del Parlamento europeo, di cui parleremo ampiamente in questa puntata, e tra le tanti importanti fatti c'è stata anche una premiazione, ed è stata la premiazione del premio Lux, un premio cinematografico assegnato annualmente a un film di produzione europea dal Parlamento. È stato istituito nel 2007 e l'obiettivo è proprio quello di diffondere una diversa luce sul dibattito pubblico sull'integrazione europea, e quest'anno il premio l'ha vinto un film italiano. Si tratta di Io sono lì, e con noi c'è il regista Andrea Segre. Ciao Andrea, ben ritrovato qui all'Altra Europa. Ciao, ciao, buona giornata a tutti. Grazie. Allora, come credo sia stato emozionante, insomma, nel cuore d'Europa, con un film che parla di conflitti, di incontri, di scontri, di contaminazione, era il luogo giusto dove portare il tuo film? Beh, sì, sicuramente è stato la materializzazione di un incontro, no, tra le culture europee e le tensioni che in quel film sono raccontate, in un piccolo paesino, no, in una piccola storia di un piccolo paesino, però in realtà sono tensioni che poi trovi in tanti piccoli paesini di questa Europa, di questo mondo. Cioè, certamente è stato molto emozionante, anche un po' difficile all'inizio, perché la prima volta che ho messo piede al Parlamento europeo mi sono ritrovato sul seggio del Presidente a dover parlare davanti a tutti, è stato facilissimo. Quindi adesso, al di là di tante parole, il primo minuto è stato complesso. Dopodiché ho detto va bene, adesso sono qua, vi dico quello che penso, insomma non ci ho più pensato. Però all'inizio essere in mezzo a 800 parlamentari europei che ti ascoltano e che aspettano che dici qualcosa di sensato non è facilissimo. Cosa ti ha detto Schulz a telecamere spente, al di là dei ringraziamenti e dei complimenti ufficiali? Ma ha detto che lui crede molto nella necessità che il cinema aiuti a costruire quelle storie che non fanno più parte di singole identità nazionali, ma che pur facendo parte di identità locali aiutano a parlare di questa strana identità europea, che tutto sommato però è l'unica su cui vale la pena scommettere, perché continuare a pensare che le identità siano quelle nazionali nel mondo di oggi è veramente perdente, piccolo e anche un po' triste. Allora scommettere su un'identità che probabilmente è l'antitesi di quelle identità, ma che però si forma attraverso ponti, legami, tensioni anche che si hanno tra i diversi luoghi e tra il coraggio di questi diversi luoghi e anche la paura di questi diversi luoghi di conoscersi, questa è una sfida molto più ampia. E credo, sono d'accordo con Schulz, anche se chiaramente lui ne è ben più qualificato, sono d'accordo che sia una sfida dentro alla quale il cinema può giocare un bel ruolo. Tu, Andrea, racconti storie di migrazione, spesso storie di identità, storie anche di emozioni, di sentimenti, di percorsi empatici. Sentimenti e emozioni li hai respirati anche lì all'interno del palazzo? Ma adesso forse avrei avuto bisogno di starci un po' più tempo, perché il problema è che questo premio, di cui sono chiaramente molto felice, è capitato in mezzo alle riprese del nuovo film. Cioè io in questo momento sono in una piccola valle del Trentino e stiamo girando il nuovo film, quindi il viaggio a Strasburgo è stato un'avventura di un giorno molto rapida per non interrompere troppo le riprese. Certo. E quindi mi sono goduto anche un po' il ruolo da turista, nel senso che era la prima volta che entravo in questo posto, che sicuramente ha un impatto simbolico molto forte, molto toccante, e al di là di quel momento da presidente, da quei 6 minuti di presidente, per il resto mi sono goduto anche la possibilità di cercare di capire che dov'ero, ma senza volerne diventare poi un narratore specifico. Quello che capisco e che ho un po' respirato è proprio che in quel luogo c'è quella difficoltà di cui parlavamo prima, cioè quella di tentare di costruire un senso ad una cosa che è ancora molto legata ad un futuro, no? E non ad un passato. Cioè in fondo è un Parlamento che non rappresenta un punto di unione di una storia passata, ma è un Parlamento che rappresenta una sfida verso un futuro, ed è una cosa molto difficile da rappresentare sia simbolicamente che concretamente nell'attività quotidiana. Grazie davvero ad Andrea Segre. Ricordiamo www.iosonoli.com, il sito ufficiale per conoscere il film, insomma, se non avete avuto occasione di vederlo, ve lo consiglio assolutamente. E Andrea, complimenti ancora, in bocca al lupo quindi per il nuovo lavoro in cui ti stai impegnando. Ciao e grazie. Grazie, ciao, grazie. Adesso un Europostit, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. European Film Awards, cinema in festa a Malta. Gli European Film Awards sono premi che la European Film Academy assegna alle eccellenze della produzione cinematografica europea. La cerimonia, che si tiene annualmente il 1 dicembre, viene celebrata a Berlino negli anni dispari e negli anni pari in varie città europee. Il 2012, anno della 25esima edizione, è la volta di Malta. I 74 film selezionati tra lungometraggi, corti e documentari sono provenienti da 36 paesi europei e parlano per lo più di amore, sesso e letteratura. Sono accomunati da una generale atmosfera poetica e malinconica. Poche commedie quindi per quest'anno, ma sentimenti profondi e temi importanti. Per informazioni sul programma e i film in concorso, visitate il sito europeanfilmawards.eu. L'altra Europa. Eccoci qua ancora con l'altra Europa, e vi avevo anticipato che avremmo diffusamente parlato della plenaria del Parlamento a Strasburgo che si è tenuta in questi giorni, e lo facciamo con il vicepresidente vicario del Parlamento Europeo, l'onorevole Gianni Pittella. Buongiorno Pittella, ben ritrovato qui all'altra Europa. Ciao Federico e buon sabato a tutti. Buon sabato. Allora, giorni intensi, ma da mesi vale questa frase per l'Europa, però questa settimana è stata una settimana fondamentale. Abbiamo visto ieri, non si è trovato un accordo sul bilancio, c'è stato un rinvio e poi c'è stata la plenaria del Parlamento. Gianni, ricordiamo che cos'è la plenaria, a cosa serve e come funziona, anche per spiegare ai cittadini cosa succede là tra Strasburgo e Bruxelles. Una volta al mese si riunisce il Parlamento europeo nella sua pienezza, quindi 754 deputati appartenenti ai 27 paesi, si riunisce solitamente a Strasburgo dal lunedì alle 15 fino al giovedì pomeriggio, e in quelle giornate si discutono vari punti che sono stati preparati precedentemente attraverso i lavori delle commissioni parlamentari e dei gruppi politici. 4 punti sono stati più salienti della scorsa tornata. È stato sbloccato finalmente il budget per i terremotati dell'Emilia-Romagna, buona notizia per queste povere persone che hanno subito questo disastro. È stato dato l'indirizzo del Parlamento per il bilancio poliennale, come tu hai ricordato, purtroppo poi tra i governi non c'è stato l'accordo. Ve lo aspettavate che non ci fosse. Ma era molto facile prevederlo, perché le posizioni dei paesi del nord Europa erano e sono posizioni assolutamente radicali. Loro vogliono addirittura tagliare l'Erasmus, ma siamo alla follia pura, insomma. Tagliare il miglior programma che ha avuto l'Unione Europea è pura follia. Quindi noi come Parlamento ci siamo dati una linea di negoziato con i governi e non cediamo, non siamo disponibili ad un accordo che riduca i fondi per la ricerca, per la formazione, per l'agricoltura, per l'Erasmus, per le reti infrastrutturali e per i fondi strutturali. Condividiamo in pieno. Terzo punto importante è stata la sostituzione del commissario Dalli, il maltese, il commissario alla sanità e all'ambiente, con anche alcune implicazioni ambientali, con il commissario Borg. Il Parlamento ha votato a maggioranza a favore della nomina del commissario Borg, e infine c'è stata un'importante risoluzione sulla situazione di Gaza, con cui abbiamo chiesto il cessate il fuoco e abbiamo chiesto un immediato intervento del quartetto per riaprire anche un circuito, diciamo, che vada oltre l'emergenza terribile di questi giorni. Onorevole, mi leggo proprio a quest'ultimo punto e lo allargo anche alla Siria: quasi 40.000 vittime secondo le varie ONG locali. Gaza, lo stesso ministro degli affari esteri Giulio Terzi ha detto una possibilità per la pace potrebbe essere quella di affidare la sorveglianza dei valichi verso la striscia di Gaza proprio all'Unione Europea. Ecco, qual è il ruolo politico che l'Unione Europea può e deve avere in quelle zone? Ma innanzitutto in questo momento il ruolo politico è quello di consolidare il cessate il fuoco, insomma la tregua. Abbiamo detto la nostra, siamo stati i primi a chiedere il cessate il fuoco, dobbiamo adesso lavorare insieme alla Clinton e agli altri per consolidare la tregua, e poi dobbiamo isolare gli estremisti radicali da un fronte e dall'altro. Ci sono, quando arrivano le elezioni, succede questo lì, che i falchi per prendere i voti alzano il volume dello scontro da una parte e dall'altro, e fin quando prevalgono le posizioni dei falchi un accordo non si farà mai. Quindi l'Unione Europea deve lavorare perché emerga il fronte moderato e riformista che c'è sia in Israele e sia in Palestina. Detto questo, che ci possa essere un impegno diretto dell'Unione Europea anche nella sorveglianza dei valichi, secondo me è una cosa buona. Da questo punto di vista, la proposta del ministro italiano è una buona idea. Mm-hmm. E per quanto riguarda la Siria, secondo te l'Europa sta facendo abbastanza? Un mese fa circa venne da me con una delegazione il padre Dall'Oglio. Sì, padre gesuita, certo. Sì, padre gesuita, che è uno dei principali combattenti per la democratizzazione della Siria, e venne a chiedere un'azione tesa alla riunificazione delle forze di opposizione. Noi abbiamo lavorato in questa direzione, mi pare che ora l'obiettivo è stato raggiunto. La riunificazione delle opposizioni in Siria è una condizione per sbloccare la situazione, perché è ovvio che con forze di opposizione al regime frammentate aveva sempre la parte del vittorioso il dittatore siriano e questi ribelli venivano massacrati. Il riconoscimento ufficiale di queste forze riunificate è importante. Parigi ha fatto una mossa in tal senso e anche altri governi europei lo stanno facendo. Credo che questo possa aprire la porta ad un esito del conflitto nel senso favorevole agli oppositori. Gianni, con quale umore sei tornato da Strasburgo? Come sta l'Europa? Ma guarda, purtroppo ci sono delle condizioni che frenano. Il freno viene quasi anche adesso, viene da questi paesi del nord. Io posso, diciamo, non capire né giustificare, ma posso in qualche modo rendermi conto che la Merkel ha le mani legate dalle elezioni incombenti in Germania, anche se un leader o una leader non dovrebbe farsi mai mettere le manette dagli elettori, ma dovrebbe cercare di portare avanti una linea anche convincendo gli elettori. Comunque il problema dell'Europa oggi è che stanno prevalendo gli egoismi nazionali, e gli egoismi nazionali fanno a cazzotti con la necessità di imprimere una svolta nella gestione della crisi, puntando effettivamente e concretamente sulla crescita, sul lavoro, sull'occupazione e su un'Europa politica che deve sempre più agire come blocco comune e non come sommatoria di 27 teste. Ecco. Certo, le prossime settimane quali sono i tuoi obiettivi, su cosa stai lavorando in questo periodo? Ma sto lavorando molto sulla supervisione bancaria, sono uno dei relatori che sta lavorando alla supervisione bancaria, che è una cosa importantissima e vorrei dire quasi rivoluzionaria. Se riusciamo a centrare l'obiettivo, il traguardo, noi avremo finalmente una supervisione europea delle banche, di tutte le banche, non soltanto dell'area euro, ma anche dei paesi non area euro che vorranno essere assoggettati alla supervisione unica. Lo faremo in capo alla Banca Centrale Europea, che lavorerà con la collaborazione dei supervisori nazionali, e finalmente potremo avere una certezza che intermediari finanziari che ormai sono sovranazionalizzati possono essere vigilati e sorvegliati non da autorità nazionali, perché era veramente un paradosso questo. Questo è un passaggio fondamentale che può essere anche una svolta, perché dopo la unione bancaria, che è anche questo supervisione unica, si potrà fare l'unione economica e fiscale, quindi con l'angelo degli eurobond, con un governo europeo dell'economia, e si potrà fare l'unione di bilancio che vuole la Merkel, e si potrà fare, io aggiungo, con forza l'unione politica, cioè la elezione del Presidente della Commissione europea da parte dei cittadini, il bilancio federale, la Banca Centrale Europea dotata di potere di prestatrice di ultima istanza, un ministro degli esteri e di difesa autenticamente europei e capace di politiche comuni in questi settori. Mi sembrano ottime prospettive e un bel cammino. Non è un libro dei sogni, è fattibile. È un sentiero concreto che dobbiamo percorrere passo dopo passo, con tenacia, con coerenza e con passione. E noi vi seguiremo. Grazie davvero a Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento Europeo. Buon lavoro a te e a tutti i tuoi colleghi. Ciao, buona grazie. Buona mattinata. Buon sabato. Weekend. Ciao. Europost-it. Che Europa vogliamo nel futuro? Il dibattito sul futuro dell'Europa è anche via Twitter. Come cittadini europei, quali sono le vostre preoccupazioni e le vostre aspettative nei confronti dell'Unione Europea nei prossimi anni, soprattutto riguardo alla questione dell'occupazione, alla protezione e sicurezza e all'uso sostenibile delle risorse? Per ascoltare la vostra voce e per stimolare un dialogo con i cittadini, la rappresentanza in Italia della Commissione europea organizza una serie di dibattiti aperti. Il primo incontro si terrà il 30 novembre a Napoli alla presenza del commissario László Andor, responsabile per l'occupazione, gli affari sociali e l'integrazione. La discussione sarà incentrata sull'efficacia dei poteri e delle iniziative della Commissione europea in materia di politiche per la creazione di posti di lavoro. Inviate le vostre domande anche attraverso Twitter con l'hashtag Dialogo Cittadini, e quelle più frequenti o ritwittate verranno poste direttamente al commissario. L'indirizzo è @EuropaInItalia. L'altra Europa. This one's for youth in action. You gotta get involved, be a part of it. This is for youth in action. To your mind, baby, go ahead and rhyme, baby, go for your dreams. Go and get whatever's real and be really your dream. Get involved, get into it, yes, get on our team. Know what I mean? It's the return of the blue, as fine as rock climbers. superstar MC. See, I've been moving across from Germany to Paris. We get united and take stand in solidarity. You got my back, I got your back, and it's all good. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Questo è sempre L'Altra Europa. Quello che state ascoltando è un rap ed è una sorta di sigla ufficiale del programma Giovani in Azione, questo programma europeo che cerca di incentivare l'incontro, il confronto, la mobilità con progetti specifici, progetti che coinvolgono i paesi dell'Unione e non solo, perché a volte anche allargano il proprio confine. Ci piace raccontare queste esperienze, ci piace farlo quando queste esperienze si stanno vivendo. E oggi andiamo a Cento, in provincia di Ferrara, o meglio, dovevamo andare a Cento in provincia di Ferrara, ma causa terremoto, perché siamo nell'Emilia ferita, il tutto è stato spostato a Ferrara, dove fino al 26 novembre l'associazione culturale Ferfilò organizza un training finanziato dall'Agenzia Nazionale per i Giovani è promosso dalla Commissione Europea dal titolo You, Me, Them and Everybody. Con noi c'è Enrico Atti, uno dei partecipanti. Ciao Enrico. Ciao, ciao. Ciao, buon sabato. Allora, io ho dato un po' la cornice ufficiale. Di fatto, cosa sta succedendo in queste ore lì a Ferrara? Chi siete e su cosa state lavorando? Ma guarda, in questa settimana ci stiamo un po' così concentrando sulla identità un po' nostra personale e dei vari gruppi di cui possiamo far parte. Siamo in tutto in 26, veniamo dall'Italia, dalla Slovenia, Croazia, Lituania, Lettonia e Turchia, quindi insomma come puoi immaginare c'è parecchio movimento, ecco. E così, guardando anche un po' dagli stereotipi che possono essere sulle nostre nazioni, quelli che possono essere poi pregiudizi che nascono, siamo arrivati un po' anche a parlare dei conflitti, quindi sia personali che a livello di gruppo e di come si possono affrontare, quindi risolvere. Mm-hmm. Il termine identità va molto a braccetto con il termine europeo, il sentirsi europei, no? Perché ci si sente cittadini del proprio paese, ma per fortuna ci stiamo un po' allargando. Ecco, quando voi parlate di identità lì è proprio un confronto con la propria storia, con i propri confini, con la propria terra, o si cerca di volare alto? Ma sicuramente si cerca di, in un certo senso, volare alto, come dici tu, ma al tempo stesso bisogna un po' partire da se stessi, quindi da quello che è la propria cultura, la propria storia, la propria origine, sia come persone che come identità culturale a livello di nazione, quindi abbiamo un po' lavorato su entrambi questi aspetti. E lavorando così in gruppo, tutti insieme, con proprio una situazione non formale, si riesce a far emergere abbastanza bene, insomma, tutti questi aspetti. Si respirano briciole d'Europa lì in questa situazione, da appunto tanti giovani da tanti paesi diversi? Ma sicuramente sì, perché vivendo insieme dalla mattina alla sera, ecco, sicuramente c'è un contesto molto, molto interculturale e quindi sì, finalmente in un certo senso respiriamo Europa, ecco, anche dalle piccole cose, dalle piccole abitudini che si possono avere a tavola, raccontarsele, spiegarsele, capirle, si imparano tante cose nuove, quindi insomma ci si sente un po' più uniti sicuramente. Enrico, un'ultima domanda, ma quali sono le motivazioni che vi accomunano? Nel senso, cosa spinge un giovane a dedicare una settimana della propria vita, del proprio tempo a un'attività di questo tipo, un'attività di formazione professionale e personale, dove sei chiamato comunque a metterti in gioco, sei chiamato a investire anche in energie? Veniamo bene o male tutti da realtà collegate al volontariato e da parte un po' di tutti c'è proprio questa volontà di arrivare a incrementare un po' quelle che sono le nostre capacità, le nostre abilità personali, per poi, una volta tornati a casa, andare a portarle nelle nostre associazioni o comunque nelle nostre realtà, nei nostri paesi, nelle nostre città, nelle nostre nazioni anche chiaramente, e cercare di, come dire, portare tutto quello che stiamo imparando qui insieme all'interno di progetti che poi possono arrivare a, come dire, a migliorare un po' l'interculturalità nel caso specifico di questo progetto, siccome il tema è un po' questo. Siamo partiti parlando della plenaria di Strasburgo, adesso siamo in un ostello di Ferrara, ma queste sono le Europe che ci piace raccontare, dal macro al micro. Ringraziamo Enrico, il sito è www.ferfilò.com per conoscere tutte le attività dell'associazione. Ciao Enrico, buon sabato e porta il nostro saluto a tutta l'Europa che è lì, che si mette in gioco. Grazie ancora, ciao. Grazie a te, ciao. Europostit. Giovani imprenditori europei si incontrano a Bruxelles. Per il quarto anno consecutivo, il Comitato Europeo Economico e Sociale organizza un grande evento a Bruxelles che permetterà a giovani imprenditori europei di incontrarsi e di conoscere meglio le istituzioni comunitarie che hanno forte impatto sul mondo dell'imprenditoria. Infatti, tra i relatori ci saranno membri della Commissione Europea, del Parlamento Europeo, del Comitato delle Regioni e delle più grandi aziende dell'Unione. I giovani che avranno questa grande opportunità saranno solo 30, provenienti da 20 differenti paesi. Oltre ad assistere alle lezioni frontali, potranno cogliere l'occasione per raccontare le loro esperienze, fare domande e dare suggerimenti preziosi ai rappresentanti istituzionali. Per maggiori informazioni sull'evento, visitate il sito eesc.europa.eu. L'Europa è ormai entrata nell'era spaziale. È passato molto tempo dal lancio dello Sputnik e dal primo viaggio di Yuri Gagarin. A unire gli sforzi dei singoli paesi è arrivata l'Agenzia Spaziale Europea, che ha saputo trasformare il continente in una vera potenza spaziale, rispettata nel mondo, con all'attivo tantissime missioni importanti, dai voli automatizzati all'esplorazione dell'universo alla ricerca delle nostre origini. Beh, abbiamo parlato di micro e di macro in questa puntata, l'abbiamo citato poco fa. Parlare d'Europa vuol dire anche parlare delle stelle, dello spazio. Si è tenuto in questi giorni a Napoli, il 20 e il 21 novembre, il Consiglio Ministeriale dell'ESA 2012, oltre 450 persone tra delegati, osservatori e giornalisti. Si è proprio parlato del presente, ma soprattutto del futuro, del rapporto tra l'Europa e lo spazio, per capire quello che è successo, ma soprattutto per capire l'importanza dell'evento. Abbiamo con noi Antonio Fabrizi, direttore dei lanciatori ESA. Buongiorno Fabrizi. Buongiorno. Buongiorno, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Penso sia stata una settimana impegnativa, ma una settimana importante. È passato da questi giorni, è passato lì da Napoli il futuro dell'Europa per quello che riguarda la vocazione spaziale? Sì, abbiamo fatto un'altra tappa per quello che riguarda le decisioni sui finanziamenti e le decisioni programmatiche per le attività spaziali. È un appuntamento che si ripete mediamente ogni 3 anni e che prevediamo di ripetere ancora fra 2 anni, e quindi abbiamo preparato la programmazione per i prossimi 2 anni e per gli anni a venire successivi anche. Tantissimi soldi in ballo, si leggono cifre importanti. L'Italia, protagonista assoluta, contribuirà con 500 milioni di euro ai programmi obbligatori, con oltre 600 milioni di euro ai programmi opzionali. Cosa vuol dire oggi investire nello spazio? Ma diciamo che lo spazio oggi non è più la corsa degli anni 60. Sentivo prima parlare dello Sputnik, non è più questa corsa nella ricerca dello spazio per se stesso. Oggi lo spazio è un motore economico per attività che producono servizi utili ai cittadini nella vita quotidiana. Parliamo della navigazione, parliamo della televisione, parliamo delle telecomunicazioni, dell'osservazione a terra, meteorologia, tutte cose che noi viviamo tutti i giorni, nella vita di tutti i giorni, senza neanche renderci conto che queste cose vengono dallo spazio. E quindi le attività spaziali sono sì un investimento pesante in termini economici, ma sono un investimento che produce tante altre attività e servizi ai cittadini. Quest'anno per la prima volta hanno preso parte ai lavori anche le delegazioni di Polonia e Romania. Oltre all'Unione Europea anche l'ESA si allarga, anche se di fatto forse pensando anche ai laboratori, alle strutture, è veramente un pensiero comune europeo. Le singole nazioni sì, ci sono, però ormai le connessioni, ormai gli incontri, ormai le contaminazioni tra gli scienziati e i ricercatori vanno al di là dei confini. Forte investimento anche per il futuro dei giovani, perché comunque questi milioni di euro hanno come ricaduta posti di lavoro. Sicuramente. Innanzitutto per quello che riguarda i paesi nuovi, membri dell'ESA, diciamo questo è un segnale forte, paesi come la Romania e la Polonia che in un momento di crisi economica riescono a ricavare il necessario per aderire a un progetto comune europeo di attività di grande respiro e quindi costruire il futuro, questo sicuramente è un segnale molto importante. Teniamo presente che parliamo di cifre ingenti in un momento di crisi. E poi occupazione, perché tutto questo genera occupazione. I paesi che da soli non potrebbero fare attività spaziale, nessun paese europeo, neanche i maggiori come la Francia o la Germania, possono fare attività spaziali da soli. I grandi progetti, le grandi realizzazioni si ottengono solo mettendo insieme le forze, e direi che questo è stato un punto fondamentale di questa ministeriale. Fabrizio, lei è direttore dei lanciatori ESA. Cosa significa? Nel senso, ci faccia capire a noi non addetti ai lavori, qual è la sua occupazione, che immagino appunto sia di coordinamento, sia di ricerca, sia di indicare. Sì. Cosa fa? Ma diciamo che nelle attività spaziali ci sono diverse cose che vanno realizzate. Sì. E allora i satelliti sono le cose che diciamo rappresentano più in modo più preciso le realizzazioni, le funzioni che si devono realizzare con gli oggetti che mettiamo nello spazio, ma per mettere questi oggetti nello spazio bisogna avere i mezzi per andarci, e questi mezzi noi li chiamiamo i lanciatori, cioè sono i razzi, se vogliamo chiamarli così in modo più semplice, che dalla Terra portano i satelliti dove devono stare e quindi nelle orbite precise da cui possono effettuare i loro servizi. Se parliamo dei satelliti per esempio di telecomunicazioni, che per esempio usiamo per vedere la televisione, e quei satelliti si trovano a 36.000 km di altezza sulla Terra in posizioni fisse, ecco, questi li lanciamo dalla base europea che si trova nella Guyana francese con dei razzi che sono razzi costruiti da più imprese europee. Abbiamo il grande lanciatore Ariane o il più piccolo Vega, e sono i nostri strumenti per portare in orbita, come dei camionisti dello spazio, portiamo in orbita questi carichi preziosi che producono servizi ai cittadini. Si emoziona ancora ad ogni lancio? Mi emoziono sempre, a ogni lancio, certo. Grazie davvero per averci dato una fotografia della situazione, in bocca al lupo a lei e a tutto il suo team per l'importante lavoro che vi aspetta. Buon sabato, Fabrizi. Grazie altrettanto, buon weekend. Arrivederci. Un post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'Altra Europa. Euro Post-it. Inventa uno slogan per l'acqua e vinci un viaggio a Parigi. Ogni anno il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua, con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione mondiale sulla centralità di una gestione sostenibile delle risorse idriche. Per questa edizione le Nazioni Unite hanno indetto un concorso che premierà l'autore di uno slogan accattivante e di facile comprensione che insista sul messaggio della Giornata Mondiale. Saranno selezionati i 3 lavori migliori in base all'originalità, la creatività e la pertinenza al tema, mentre un sondaggio online determinerà il vincitore assoluto del concorso. Il vincitore sarà invitato con volo, vitto e alloggio incluso all'evento di apertura dell'Anno Internazionale della Cooperazione per l'Acqua, che si terrà a Parigi presso la sede dell'UNESCO il prossimo gennaio. Per maggiori informazioni visitate il sito unwater.org/watercooperation2013. L'Altra Europa. Eccoci qua, torniamo nel cuore d'Europa. Prima siamo stati a Strasburgo, adesso Andiamo a Bruxelles, ci andiamo per raccontarvi di un libro intitolato Meantime, nel frattempo, un libro di passaggio, un libro scritto a otto mani, a otto teste, otto compagni di corso di un gruppo di scrittura in inglese che hanno deciso di raccontare, di fatto romanzare le loro storie. Uno di questi racconti, in uno di questi racconti il protagonista è un 33enne inglese che fa il portavoce di un membro della Commissione europea. L'idea di questi giovani scrittori è proprio quella di raccontare il dietro le quinte, di fatto, della vita a Bruxelles. E con noi c'è l'autore di questo racconto, diamo il benvenuto a Nick Jacobs, che fa il giornalista, 27enne, ha studiato lingue a Londra e vive a Bruxelles da 5 anni, si è occupato di comunicazione per la Commissione europea e ora è addetto stampa all'ONU. Ciao Nick, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Un bel esercizio, perché avete voluto raccontare da un altro punto di vista Bruxelles. Tu hai scelto di raccontare appunto una giornata, di fatto, di un portavoce di un membro della Commissione europea. È un racconto autobiografico in parte? In parte sì, conosco bene la Commissione europea perché sono stato giornalista a Bruxelles durante 3 anni, così ho visto un po' come funzionano le istituzioni. Ho scelto questa di ambientare la mia storia nell'ambito europeo perché trovo che è tipico di Bruxelles, ci sono tante persone che lavorano nella Commissione, nelle istituzioni. Ma ci sono tanti temi diversi in questa raccolta di storie. E un altro tema è quello di essere giovane a Bruxelles, di dover fare scelte difficili. Per il mio protagonista, sì. Tutto succede in un giorno. È un giorno in cui deve essere fotografato con una commissaria. Ci sono momenti ridicoli. Sì. Il protagonista deve imparare a prendere la sua vita un po' meno sul serio. Questo è uno dei temi che escono della raccolta. Ma è difficile essere giovani a Bruxelles? Nel senso, ti chiedono comunque di essere adulto? Quotidianamente ti chiedono appunto di essere molto elegante, molto formale. Quindi c'è questa difficoltà, è reale? Direi che è un tema interessante, perché a Bruxelles devi fare tante scelte. Le scelte qui sono ancora più importanti di quelle che fai in un altro posto, perché qui, quando una persona deve decidere di lasciare un lavoro o una relazione, vuole dire spesso lasciare anche la città e tutta la vita che ti sei costruito lì. Allora Bruxelles è sempre dietro tutte le decisioni, devi chiederti e richiederti perché ci sei, perché ci rimani a Bruxelles. Certo, e per voi Bruxelles avete raccontata come di fatto una città di passaggio, dove i giovani, dove le persone vivono un anno, qualche anno, comunque un periodo limitato della propria vita. È una città quindi dove uno non proietta il proprio futuro, è una città dove comunque uno non si vede per sempre. Sì, esatto. È una città complicata, perché ci sono tante linee di separazione tra i fiamminghi e francofoni, tra i belgi, stranieri, i diversi gruppi di stranieri. E questo influisce molto sulla maniera in cui ti vedi a Bruxelles. Ma queste divisioni sono anche molto ambigue, perché ci sono certi expats, stranieri, sì, che si sentono più a casa, più permanenti a Bruxelles, della gente nata qui. E ci sono anche dei bruxellesi che in una città così multiculturale si sentono più come degli expats. Certo. Quindi non c'è un'identità semplice qui. Mm-hmm. Nick, ma per te, per la tua esperienza, Bruxelles è una piccola metafora dell'Europa, nel bene e nel male? Ah sì, può essere. Può essere un posto in cui ti trovi bene tra gente da posti diversi, in cui hai tante possibilità, i tuoi sogni possono diventare realtà, ma è anche un posto difficile perché hai tante scelte. Nel mezzo di queste persone che anche loro hanno i loro sogni e sono concorrenti in un senso. Prima hai detto che nel tuo racconto ci sono anche dei passaggi ridicoli. Manca l'ironia a Bruxelles, secondo te? No, penso che qui c'è molta ironia. Sì. A volte incontri qualcuno che si prende troppo sul serio, mm-hmm. perché c'è questa impressione che siamo qui nel centro di Europa, stiamo lavorando in un ambito politico molto importante dove prendiamo le scelte che influiscono su tutto. Ma alla fine sono lavori come gli altri e ci sono momenti ridicoli anche per un commissario, per un deputato. È questa la ironia che ho cercato di rappresentare nella mia storia. E penso che c'è questa ironia a Bruxelles. E credo, insomma, che sia un'ironia anche utile da raccontare, perché questa serietà a volte poi si trasforma in freddezza, in distacco, in distanza, quindi il palazzo sembra una cosa lontanissima, una cosa fredda, una cosa rigida, invece è composto da uomini e donne, da persone, quindi da umanità, ed è una parte importante da far uscire, da raccontare. Grazie davvero a Nick, grazie agli altri protagonisti di Main Time, 9 racconti su Bruxelles. Ciao e buon sabato. Un grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, un grazie a Margherita Ine e a Miriam Lucchetti che con me hanno scritto la puntata, Pietro Lacorte oggi in assistenza. Ci trovate su Facebook o su Twitter. Ancora buon sabato, ancora ciao da Federico Taddia.